Ben presto udì che egli stava dormendo, ma per lei non ci fu più sonno. Mentre si sforzava di giacere immobile per non disturbarlo, nella sua mente si svolgeva un conflitto in cui l'immaginazione schierava le proprie forze prima da una parte e poi dall'altra. Non presagiva che il potere che il marito desiderava imporre sul suo agire futuro avesse relazione con qualcos'altro di diverso dal suo lavoro. Ma le era abbastanza chiaro che si aspettava che si sarebbe dedicata a vagliare quella congerie mista di materiale che dovevano essere l'ambigua dimostrazione di principi ancora più ambigui. La povera ragazza aveva cessato completamente di credere nell'attendibilità di quella chiave che era stata l'ambizione e la fatica dell'intera vita di suo marito. Non c'è da stupirsi che, a dispetto della sua esigua istruzione, il suo giudizio in proposito fosse più veritiero di quello di Mr. Casabo. Infatti guardava con una capacità di confronto imparziale, un sano buonsenso e le probabilità in cui egli aveva rischiato tutto il proprio egoismo. Ed ora lei si figurava i giorni, i mesi e gli anni che avrebbe dovuto trascorrere nel vagliare quelle che si potevano chiamare mummie infrante e frammenti di una tradizione che era essa stessa un mosaico composto di rovine frantumate. Vagliarle come alimento per una teoria che era già avvizzita sul nascere come un piccolo aborto. Senza dubbio, un errore vigoroso perseguito con forza ha conservato gli embrioni della verità in vita. Siccome la ricerca dell'oro è allo stesso tempo un interrogare gli elementi, il corpo della chimica è pronto ad accogliere un'anima e nasce Lavoisier. Ma la teoria di Mr. Casabo sugli elementi che costituivano il seme di tutta la tradizione non era probabile che portasse inavvertitamente a delle scoperte. Galleggiava fra congetture flessibili non più solide di quelle etimologie che sembravano credibili a causa della somiglianza del suono, finché non veniva dimostrato che la somiglianza di suono le rendeva improponibili. Era un metodo di interpretazione che non era sperimentato dalla necessità di formulare qualcosa che provocasse un impatto più netto di un'idea complicata su Gog e Magog. Era privo di interruzione, come un progetto per infilzare le stelle una dopo l'altra. E Dorotea aveva dovuto così spesso frenare la propria stanchezza e impazienza su questa discutibile risoluzione di enigmi, quale le si era rivelata, invece della partecipazione a conoscenze elevate che doveva rendere la vita più degna. Ora poteva capire benissimo perché il marito era venuto a stringersi a lei, come fosse l'unica speranza rimasta che le sue fatiche avrebbero un giorno assunto una forma in cui potessero venire date al mondo. Dapprima era sembrato che volesse tenerla lontana da qualsiasi conoscenza approfondita di ciò che stava facendo, ma poco a poco la terribile impellenza del bisogno umano, la prospettiva di una morte troppo rapida, e a questo punto la compassione di Dorotea si volse dal proprio futuro al passato del marito, anzi alla sua attuale dura lotta con un destino che si era formato su quel passato. La fatica solitaria, l'ambizione ansimante sotto il disagio della mancanza di fiducia in se stesso, il recedere della meta e le membra più pesanti. E ora infine la spada visibilmente tremolante su di lui. E lei non aveva forse desiderato sposarlo per poterlo aiutare nell'impresa faticosa di un'intera vita? Ma lei aveva pensato che l'opera dovesse essere qualcosa di più grande, a cui lei avrebbe potuto contribuire devotamente per i suoi meriti intrinsechi. Era giusto, magari per lenire il dolore di lui, sarebbe stato possibile, anche se avesse promesso, lavorare come in una routine infruttuosa. Eppure poteva rifiutarsi, poteva dire: mi rifiuto di accontentare questa fame languente. Avrebbe significato rifiutare di fare per lui morto ciò che quasi sicuramente avrebbe dovuto fare per lui da vivo. Se egli viveva, come Lydgate aveva detto che poteva succedere, per 15 anni o più, e avrebbe certamente dovuto trascorrere la vita ad aiutarlo e a obbedirgli. Eppure vi era una profonda differenza fra quella devozione al vivo e quell'indefinita promessa di devozione al morto. Mentre egli viveva, non poteva pretendere nulla contro cui lei non fosse ancora libera di protestare e addirittura di rifiutare. Ma il pensiero le passò più di una volta per la mente, sebbene non riuscisse a crederci. Non poteva darsi che egli intendesse chiederle qualcosa di più di quanto lei fosse stata in grado di immaginare, dato che voleva che si impegnasse a esaudire i suoi desideri senza dire esattamente quali fossero. No, il suo cuore era attaccato solo al suo lavoro. Quello era lo scopo per cui la vita di lei doveva supplire all'insufficienza della sua vita che veniva meno. Ed ora, se lei gli avesse detto: "No, se morirete io non metterò mano al vostro lavoro", sarebbe sembrato che volesse schiacciare quel cuore ferito. Per 4 ore Dorotea si dibatté in questo conflitto finché non si sentì male e, sbalordita, incapace di prendere una risoluzione, si mise a pregare in silenzio. Inerme come un fanciullo che ha singhiozzato e cercato troppo a lungo, cadde addormentata al mattino e quando si destò, Mister Kesabo era già alzato. Tantrip le disse che aveva detto le preghiere, fatto colazione e si trovava nella biblioteca. "Non vi ho mai visto così pallida, signora", disse Tantrip, una donna dal corpo solido che era stata con le due sorelle a Losanna. "Ho avuto mai un colorito intenso, Tantrip?" chiese Dorotea sorridendo debolmente. "Beh, non dirò un colorito intenso, ma la freschezza di una rosa. Ma a stare a respirare sempre quei libri di pelle, cosa ci si può aspettare? Vi prego, riposate un po' questa mattina, signora. Lasciate che dica che siete ammalata e non potete andare in quella soffocante biblioteca." "Oh, no, no, devo affrettarmi", disse Dorotea. "Mister Kesebo ha particolarmente bisogno di me." Quando scese si sentì certa che avrebbe promesso di acconsentire ai suoi desideri, ma l'avrebbe fatto più tardi quel giorno, non ancora. Come Dorotea fece il suo ingresso nella biblioteca, Mister Kesebo si rivolse dal tavolo su cui stava posando alcuni libri e disse: "Stavo aspettando che arrivaste, cara. Avevo sperato di mettermi subito a lavoro questa mattina, ma mi sento lievemente indisposto, forse per la troppa eccitazione di ieri. Ora ho intenzione di fare un giretto nel bosco, dato che l'aria è più mite." "Sono lieta di sentirvi parlare così", disse Dorotea. "Temevo che la vostra mente avesse lavorato troppo la notte scorsa." "Vorrei tranquillizzarla sull'ultimo punto di cui vi ho parlato, Dorotea. Adesso potete darmi una risposta, credo." "Posso venire in giardino da voi fra poco?" disse Dorotea, guadagnando in tal modo un attimo di tregua. "Sarò nel sentiero del Tasso per la prossima mezz'ora", disse Mister Kesavo, e poi la lasciò. Dorotea, sentendosi molto stanca, suonò il campanello e chiese a Tantrip di portare alcuni scialli. Sedeva immobile da alcuni minuti, ma il conflitto precedente non si era in alcun modo rinnovato in lei. Sentiva semplicemente che avrebbe detto sì alla propria condanna. Era troppo debole, troppo terrorizzata al pensiero di infliggere un colpo doloroso al marito, per non far altro che sottomettersi completamente. Sedeva immobile e lasciò che Tantrip le mettesse il cappellino e lo scialle. Passività insolita per lei, perché le piaceva prendersi cura della propria persona. "Dio vi benedica, signora", disse Tantrip con un irreprimibile empito d'amore per la creatura bella e giovane, per la quale si sentiva incapace di fare altro ora che aveva terminato di annodarle il cappellino. Questo fu troppo per la sensibilità tesissima di Dorotea, che scoppiò in lacrime, singhiozzando contro il braccio di Tantrip, ma in breve tempo si frenò. Si asciugò gli occhi e dalla parte a vetri uscì verso il boschetto. "Vorrei che ogni libro di quella biblioteca si trasformasse in una catacomba per il tuo padrone", disse Tantrip a Prat, il maggiordomo, incontrandolo nella sala della colazione. Era stata a Roma e aveva visitato i monumenti, come sappiamo, e rifiutava sempre di chiamare Mister Kesabo in altro modo che il tuo padrone quando parlava all'altra servitù. Prat rise. Il suo padrone gli andava moltissimo a genio, ma gli andava più a genio Tantrip. Quando Dorotea si trovò nei velletti di ghiaia, indugiò nel folto più vicino degli alberi, esitante, come aveva fatto un'altra volta in precedenza, sebbene per un motivo diverso. Allora aveva temuto che il suo tentativo di allacciare un'amicizia non sarebbe stato ben accolto. Adesso era terrorizzata di recarsi nel luogo in cui prevedeva di doversi legare a un'amicizia da cui rifuggiva. Né la legge, né l'opinione degli altri ve la costringevano, solo la natura del marito e la propria compassione, solo il gioco ideale del matrimonio e non quello reale. Si rendeva perfettamente conto di tutta la situazione, eppure era impastoiata, non poteva riscuotere l'anima colpita che supplicava la sua. Se la debolezza esisteva, Dorotea era debole. Ma la mezz'ora stava passando e non doveva più indugiare. Quando imboccò il sentiero del Tasso, non vide il marito, ma nel viale c'erano curve e lei procedette nell'attesa di intravedere la sua figura avvolta in un mantello blu che con un caldo berretto di velluto costituiva il suo abbigliamento esteriore nei giorni freddi per passeggiare in giardino. E venne in mente che forse si stava riposando nel chiosco, verso il quale il sentiero compiva una piccola deviazione. Voltato l'angolo, lo vide seduto sulla panca, vicino a un tavolo di pietra. Aveva le braccia appoggiate sul tavolo e la fronte racchiusa su di esse, mentre il mantello blu era tirato avanti e gli celava il volto da entrambi i lati. Ieri sera si è sfinito, si disse Dorotea, pensando dapprima che fosse addormentato e che il chiosco fosse un luogo troppo umido in cui riposarsi. Ma poi ricordò che negli ultimi tempi lo aveva visto assumere quella posizione quando li leggeva, come se la trovasse più comoda di qualsiasi altra, e che talvolta era solito parlare, oltre che ascoltare, col volto reclino a quel modo. Entrò nel chiosco e disse: «Sono venuta, Edward, sono pronta!» Egli non le badò. E lei pensò che doveva essere addormentato profondamente. Gli posò la mano sulla spalla e ripeté: «Sono pronta!» Restò ancora immobile e, colta da un improvviso confuso timore, si chinò su di lui, gli tolse il berretto di velluto, gli appoggiò alla guancia vicino al capo, urlando in tono angosciato: «Sveglia, caro, sveglia, ascoltami! Sono venuta a risponderti!» Ma Dorotea, la sua risposta, non la pronunciò mai. Più tardi, quel giorno stesso, Lydgate era seduto al suo capezzale mentre lei delirava, pensava ad alta voce, ricordava ciò che le era passato per la mente la notte prima. Lo riconobbe e lo chiamò per nome, ma pareva che credesse giusto spiegargli tutto e ripetutamente lo pregò di spiegare tutto al marito. Ditegli che andrò da lui subito, sono pronta a promettere. Solo a pensarci sopra è stato così terribile, mi ha fatto star male, non molto male. Ben presto starò meglio, andate a dirglielo. Ma il silenzio nell'orecchio del marito non sarebbe più stato turbato. Capitolo 49. Per Dio, se solo potessimo impedire a Dorotea di venirne a conoscenza, disse Mr. James Chatham, col piccolo cipiglio sulla fronte e un'espressione di intenso disgusto attorno alla bocca. Era in piedi sul tappeto davanti al focolare nella biblioteca di Lowick Grange e stava rivolgendosi a Mr. Brooke. Era il giorno successivo al funerale di Mr. Casaboy e Dorotea non era ancora in grado di lasciare la propria camera. Questo sarebbe difficile, mi capite, Chatham, perché lei è un'esecutrice testamentaria e le piace dedicarsi a queste cose, proprietà, terra, roba del genere. Ha le sue idee, capite? Disse Mr. Brooke, inforcando gli occhiali nervosamente ed esaminando i bordi di una carta piegata che teneva in mano. E lei vorrebbe agire, credetemi, come esecutrice. Dorotea vorrebbe agire. Ne ha compiuti 21 anni il dicembre scorso, capite? Io non posso impedire nulla. Sir James guardò il tappeto per un minuto in silenzio e poi, alzati improvvisamente gli occhi, li fissò su Mr. Brooke dicendo: «Vi dirò cosa possiamo fare. Finché Dorotea non sta bene, ogni faccenda le deve essere tenuta nascosta ed appena sarà in grado di venire trasportata deve venire da noi. Per lei stare con Celia, il bambino sarà la cosa migliore del mondo e il tempo le passerà velocemente. Frattanto voi dovete sbarazzarvi di Ladislav, dovete mandarlo fuori dal paese». A questo punto l'espressione di disgusto tornò sul volto di Sir James con tutta la sua intensità. Mr. Brooke si mise le mani dietro la schiena, andò alla finestra e si raddrizzò con un leggero scossone prima di rispondere: «Questo si fa presto a dire, Chatham, presto a dire, capite?» «Mio caro signore», insistette Sir James, contenendo la propria indignazione entro forme rispettose, «siete stato voi a portarlo qui e siete voi a tenerlo qui, voglio dire con l'impiego che gli date». «Sì, ma non voglio licenziarlo su due piedi senza addurre delle ragioni, mio caro Chatham. Ladislav è stato prezioso, mi ha soddisfatto pienamente. Io giudico di aver reso un servigio a questa parte del paese portandolo qui, portandolo, capite?» Mr. Brooke concluse con un cenno del capo, voltandosi. «È un peccato che questa parte del paese non potesse fare senza di lui. Ecco tutto quello che ho da dire sull'argomento. Ad ogni modo, come cognato di Dorotea, mi sento autorizzato ad essere fortemente contrario al fatto che sia tenuto qui per intervento dei parenti di lei. Ammetterete, spero, che ho il diritto di parlare di ciò che riguarda la dignità della sorella di mia moglie». Sir James si stava calorando. «Naturalmente, mio caro Chatham, naturalmente, ma voi ed io abbiamo idee diverse, diverse. Non su questa azione di Casaubon, voglio sperare», lo interruppe Sir James. Io affermo che ha compromesso assai ingenerosamente Dorotea. Affermo che non si è mai verificata un'azione più meschina, più villana di questa. Un codicillo di questo genere, aggiunto a un testamento stilato al momento del matrimonio, con la conoscenza e la fiducia della famiglia di lei. Un insulto chiaro e tondo a Dorotea. Beh, sapete che Esabo nutriva qualche perplessità su Ladislav. Ladislav me ne ha spiegato il motivo. Antipatia per la strada che aveva preso, capite? Ladislav non aveva una gran stima per le teorie di Chesabo, Thoth ed Aegon, cose di quel genere. E immagino che a Chesabo non andasse a genio la posizione indipendente che Ladislav aveva assunto. Ho visto le lettere che si sono scritte, sapete? Il povero Chesabo era un po' sepolto fra i libri, non conosceva il mondo. Ladislav fa presto a raccontarla così, disse Sir James, ma io credo che Chesabo fosse soltanto geloso di lui per via di Dorotea. E la gente penserà che lei gli ha dato qualche buon motivo. Ed è questo che rende la cosa così abominevole, avvicinare il nome di lei a quello di questo giovanotto. Io, caro Cetta, ma non servirà a niente, capite? Disse Mr. Brooke, sedendosi e inforcando di nuovo gli occhiali. È tutt'uno con la stranezza di Chesabo. Questa carta, ecco, tavola sinottica. E avanti così, ad uso di Mrs. Chesabo. Era chiusa a chiave nello scrittoio, assieme al testamento. Suppongo desiderasse che Dorotea pubblicasse le sue ricerche, eh? E lei lo farà, sapete, si è occupata dei suoi studi in modo non comune. Mio caro signore, disse Sir James con impazienza, questo non c'entra niente. La questione è se non siete d'accordo con me sull'opportunità di mandare via il giovane Ladislav. Beh, no, non vedo l'urgenza della cosa. Tra poco forse potrà succedere, quanto ai pettegolezzi, capite? Mandarlo via non farà tacere i pettegolezzi. La gente dice quello che le piace dire, non quello di cui ha una conoscenza precisa, disse Mister Chesabo, acquistando acutezza sulla verità che si accordavano con i suoi desideri. Potrei sbarazzarmi di Ladislav fino a un certo punto, portargli via il Pioneer e cose del genere, ma non potrei mandarlo via dal paese se non volesse. Se non volesse, capite? Mr. Brooke, insistendo pacifico, come se stesse solo discutendo di come era stato il tempo l'anno prima, e facendo un cenno del capo alla fine con la sua consueta amenità, aveva una forma esasperante di ostinazione. «Gran Dio!» esclamò Sir James con tutta la veemenza che avesse mai mostrato. «Troviamogli un posto, diamogli dei soldi, se potesse andare al seguito di qualche governatore delle colonie. Grampus forse lo prenderebbe, e io potrei scriverne a Fulk». Ma Ladislav non si lascerà spedire via come un capo di bestiame, mio caro amico. Ladislav ha le sue idee. È mia opinione che se domani si separasse da me e sentireste parlare ancora di più nel paese, col suo talento per parlare e stilare documenti, ci sono pochi che potrebbero stargli alla pari come agitatore. Agitatore, capite? Agitatore, esclamò Sir James con amara enfasi, rendendosi conto che le sillabe questa parola ripetuta in modo adatto erano una sufficiente condanna della sua odiosità. Ma siate ragionevole, Chetham. Quanto a Dorotea, ecco, come dite, farebbe meglio ad andare da Celia il più presto possibile. Può stare sotto il vostro tetto e nel frattempo le cose possono risolversi tranquillamente. Non spariamo con tutte le nostre armi in fretta e furia, capite? Standish terrà la bocca chiusa e la notizia sarà vecchia prima che la gente la venga a sapere. Possono verificarsi un mucchio di cose che facciano partire Ladislav senza che io faccia niente. Capite? Allora devo concludere che vi rifiutate di fare alcunché. Rifiutarmi, Chetam? No, non dico rifiutarmi, ma non vedo proprio cosa potrei fare. Ladislav è un gentiluomo. Sono lieto di sentirlo dire, fece Sir James mentre la sua irritazione lo portava a comportarsi un po' indecorosamente. Sono certo che Chesabo non lo era. Beh, sarebbe stato peggio se avesse fatto il codicillo per impedirle completamente di risposarsi, capite? Non saprei, disse Sir James. Sarebbe stato meno indelicato. Uno dei ghiribizzi del povero Chesabo. L'attacco gli aveva sconvolto un po' il cervello. È tutto inutile. Lei non vuole sposare Ladislav. Ma questo codicillo è fatto in modo da far credere a tutti che volesse. Io non credo nulla del genere su Dorotea, disse Sir James aggrottando le ciglia. Ma sospetto di Ladislav, ve lo dico francamente, sospetto di Ladislav. Non potrei prendere alcuna misura immediata per questo motivo, Cetta. In effetti, se fosse possibile spedirlo via, Mandarlo all'isola di Norfolk, una cosa del genere, la cosa assumerebbe un aspetto ancora peggiore per Dorothea agli occhi di coloro che ne erano a conoscenza. Sembrerebbe che diffidassimo di lei, capite? Il fatto che Mr. Brooke avesse centrato un'argomentazione innegabile non portò a calmare Sir James. Allungò la mano per prendere il cappello, facendo capire che non intendeva discutere oltre, e disse ancora con un certo calore: Bene, posso solo dire che penso che Dorothea è stata sacrificata una volta, perché i suoi parenti sono stati troppo noncuranti. Come suo cognato farò quello che posso per proteggerla ora. Non potete far nulla di meglio che portarla a Freshitt il prima possibile, Chatham. Approvo completamente quel progetto, disse Mr. Brooke, soddisfatto di essere uscito vincitore dalla discussione. Sarebbe stato un grosso inconveniente per lui separarsi da Ladislav in quel momento, quando il Parlamento poteva venire sciolto da un giorno all'altro e gli elettori dovevano essere convinti della linea politica grazie alla quale si potevano meglio servire gli interessi del paese. Mr. Brooke credeva sinceramente che questo scopo si poteva raggiungere con la sua elezione a parlamentare. Egli offriva onestamente le energie della propria mente alla nazione.